Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, i modi e gli stili di vita, riservando uno sguardo prioritario alla condizione degli animali non umani. È la puntata numero 642 del nostro undicesimo anno di attività e oggi parleremo di macachi e delfini, di lupi e altri animali selvatici e nell'insieme sarà ancora una volta uno sguardo sulle difficili condizioni della vita sul pianeta Terra. Del resto noi sappiamo, e il senso della nostra trasmissione è proprio questo, che tutto è reversibile e può essere cambiato, a patto però di mutare paradigma di pensiero, di organizzarsi e di agire sul piano sia individuale sia soprattutto nella dimensione collettiva. La colonna sonora della puntata è curata da Gianluca Masala, la ricetta come sempre è di Gabriele Palloni, chiamato a inventare un piatto a partire dalle notizie proposte durante la puntata stessa. Una dozzina di anni fa, un gruppo di macachi di provenienza incerta, ma probabilmente fatti uscire da laboratori scientifici dove erano stati sottoposti a sperimentazione, trovarono un insperato rifugio nel parco faunistico dell'Abatino, nei pressi di Rieti, una struttura che a suo tempo Restiamo Animali ha raccontato con un bel reportage, che vi invitiamo a ricercare nel nostro sito restiamoanimali.it. I macachi erano 13 e furono chiamati le bambine. Per la prima volta nella loro vita, i 13 individui si trovarono in un ambiente non ostile, seppure costretti a movimenti limitati dal perimetro del parco e dalle misure di sicurezza necessarie alla convivenza di tante specie diverse. Il parco dell'Abatino in questi anni si è preso cura delle ex prigioniere, le bambine, con il decisivo sostegno dell'Associazione Vita da Cani, che ha provveduto a fornire le risorse per il sostentamento. Oggi le bambine rimaste sono solo 5 e su di loro incombe un grave pericolo. Il Ministero dell'Ambiente, al culmine di una battaglia legale peraltro ancora in corso, ha disposto il loro trasferimento in un'altra struttura, suscitando la protesta del parco e anche di Vita da Cani, oltre che di numerosi attivisti che hanno riempito la casella postale del ministro Cingolani con email di protesta. Sara D'Angelo, presidente di Vita da Cani, ha spiegato i perché dell'opposizione sua e di tanti altri. Oggi, ha detto, da 13 che erano, le bambine sono solo 5, Andy, Viola, Actarus, Lara e Monique. Sono anziane e molto delicate. Non esiste alcuna ragione per cui debbano essere spostate da lì, sedate e costrette a modificare abitudini. Ogni cambiamento per loro è pericoloso e fonte di stress, come hanno dichiarato in una relazione i veterinari della struttura, e sicuramente comprometterà un equilibrio a fatica conquistato. Secondo il ministro, il parco dell'Abatino non ha strutture adatte alla loro custodia, ma Vita da Cani ribatte facendo notare che le autorizzazioni formali ci sono tutte e che non c'è quindi motivo di sottoporre gli animali a un'ulteriore, non necessaria sofferenza. Secondo il ministero, il trasferimento andrebbe attuato entro il mese di maggio. Ma Vita da Cani non si dà per vinta e invita tutti a unirsi alle iniziative di protesta e di pressione in corso. Restiamo Animali si unisce a quanti chiedono che le bambine restino al parco dell'Abatino. Thank you. Potremmo dire, senza nascondere grande amarezza, che l'Italia non è un paese per macachi, visto che esemplari di questa specie sono regolarmente sottoposti a sperimentazione scientifica nei laboratori del nostro paese, nei quali si pratica ancora questa insopportabile e ingiusta tecnica di ricerca. È nota in particolare la storia dei macachi reclusi a Parma e oggetto di un contestato progetto di sperimentazione sulla relazione fra il cervello e la vista nella specie umana. Due associazioni, Meta Parma e Avi Parma, hanno lanciato una petizione per chiedere la liberazione dei macachi detenuti nella città negli stabulari universitari, prendendo spunto in questa petizione dalla recente approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna di un bando per la promozione di metodi di ricerca scientifica senza utilizzo di animali. Per l'Emilia-Romagna, dicono le associazioni, il passo più significativo verso una ricerca senza animali sarebbe liberare i macachi. Meta e Avi Parma ricordano un'incongruenza normativa. In Italia è vietato allevare cani, gatti e primati per ottenere individui da sottoporre a sperimentazione, ma la legge non proibisce di procurarsi individui all'estero, semplicemente acquistandoli. È così che i macachi sono arrivati a Parma, al pari dei cani beagle, dicono ancora le due associazioni, detenuti nel centro sperimentale Up to It di Verona. Per dirla, utilizzando uno slogan semplice, ma efficace e sensato, radicato nell'esperienza compiuta in questi anni, un'altra sperimentazione è possibile e secondo noi necessaria, oltre che urgente. Arrivati a questo punto, sveliamo la scelta compiuta questa settimana da Gabriele Palloni per la sua ricetta rigorosamente non violenta. È dedicata a Rieti, sede del Parco dell'Abatino, un piatto regionale rivisitato in modo che sia ottenuto e gustato senza far soffrire nessuno. Vi ricordiamo che Gabriele è autore, fra gli altri, del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, di recente ristampato. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Per una volta abbandoniamo terre lontane e abbinamenti di ricette a tema quasi impossibili per una più confortevole ricetta della cucina regionale italiana. Tipica di Rieti e delle zone limitrofe, i maccheroni a fezze in versione vegetale. Gli ingredienti per 4 persone dei maccheroni a fezze sono: per la pasta 200 g di semola di grano duro, 80 g di farina forte, 40 g di farina di ceci, 160 ml di acqua, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, sale e un pizzico di curcuma in polvere, mentre per il pesto di maggiorana 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, 2 spicchi di aglio, un cucchiaino di maggiorana essiccata, 1 o 2 peperoncini secchi, sale. Setacciate le farine e disponetele a fontana sulla spianatoia. Versate al centro l'acqua a temperatura ambiente e l'olio extravergine. Aggiungete un pizzico di sale e uno di curcuma in polvere. Impastate per una decina di minuti fino ad ottenere un impasto liscio e compatto. Avvolgetelo nella pellicola e fatelo riposare per 30 minuti prima di utilizzare. Nel frattempo preparate il pesto. Tritate grossolanamente l'aglio e il peperoncino, aggiungete la maggiorana essiccata, l'olio extravergine e un pizzico di sale. Mescolate bene il tutto e lasciate riposare. Recuperate la pasta e lavoratela sulla spianatoia infarinata formando una palla. Schiacciatela leggermente e con il pugno formate un foro al centro, realizzando una sorta di ciambella. Con le mani leggermente unte di olio, lavorate la pasta roteandola fra di esse fino ad ottenere un unico lunghissimo maccherone, che poi dividerete in lunghi cilindri come dei grossi spaghetti. Una volta pronti, cuocete in abbondante acqua bollente salata, scolate e condite con il pesto di maggiorana. Gli animali, lo abbiamo detto e raccontato più volte nel corso di questi mesi, sono fra le vittime della guerra in corso in Ucraina. Vittime dirette e indirette, testimoni incolpevoli di quella tragedia tutta umana, umanissima anche nei suoi orrori, che è appunto la guerra. Può sorprendere di primo acchito che fra le vittime non umane del conflitto ci siano anche i delfini. È quanto sostiene una ricerca della Turkish Marine Research Foundation, riportata dal quotidiano Il Guardian, secondo la quale l'inquinamento acustico nel Mar Nero settentrionale, causato da una ventina di navi da guerra della Marina russa e dalle attività militari in corso, avrebbero spinto gli animali a sud verso le coste turche e bulgare, dove vengono bloccati o catturati nelle reti da pesca in un numero insolitamente elevato. Dall'inizio della guerra, la Turchia ha registrato un aumento degli spiaggiamenti del delfino lungo la costa del Mar Nero. Più di 80 animali sono stati trovati morti. A proposito di delfini, spostandoci però nel sud Italia, ci piace segnalare una iniziativa che si svolge a Taranto, dove è stata organizzata una rassegna dedicata a fumetto e cartone animato, Taranto Comics, con l'obiettivo di sostenere il progetto Taranto Dolphin Sanctuary. I disegnatori e fumettisti hanno messo a disposizione proprie opere da mettere all'asta, con il ricavato destinato appunto a favore del nascente parco per i delfini, uno specchio di mare protetto nei pressi dell'isola di San Paolo, un habitat ideale in cui potranno essere accolti e tutelati delfini e altri cetacei a riposo provenienti da tutta l'area europea. È una piccola ma significativa iniziativa che testimonia fra l'altro quanto precaria sia l'esistenza di pesci e mammiferi anche nel mare Mediterraneo. Molte volte arrestiamo animali, ci siamo occupati del conflitto che oppone alcuni animali selvatici a gruppi e comunità umane. Particolarmente ingiusto e cruento è il rapporto fra lupi e pastori in certe zone del nostro Appennino. I pastori accusano i lupi di minare la pastorizia a causa delle predazioni di pecore e capre delle loro greggi. D'altro canto, il lupo è una specie protetta e il suo effettivo peso nella crisi della pastorizia è tutto da verificare. In ogni caso si tratta di un conflitto che deve essere affrontato con serietà e trovando soluzioni non cruente. L'eliminazione fisica dei lupi, spesso invocata, oltre che ingiusta, è anche inefficace. La soluzione più plausibile per limitare i danni e ottenere una convivenza accettabile sembra essere la protezione delle greggi, spesso lasciate al pascolo libere e quindi più facilmente predate dal lupo. Un interessante progetto in questo senso è in corso in Puglia, nell'area delle Gravine, nato dalla collaborazione fra le istituzioni locali e l'Università di Bari. Un progetto che prevede l'utilizzo di cani pastori. Una soluzione semplice, che mette in chiaro ritardi e responsabilità di chi ha in questi anni alimentato faide e violenze inutili. Il sindaco di Massafra, in provincia di Taranto, Fabrizio Quarto, Massafra è il comune capofila di questo progetto, ha spiegato che sono stati immaginati percorsi a impatto zero sulla natura e dunque ecosostenibili, per riportare un equilibrio doveroso fra noi e la fauna e la flora che ci circonda. Per noi di Restiamo Animali la pratica dell'allevamento resta problematica e da superare nella prospettiva di una nuova, futuribile relazione fra i viventi, non più marcata dall'antropocentrismo, ma ci pare utile segnalare questo piccolo episodio che mette a nudo le false piste, l'uso strumentale che si è fatto e che si fa in questi anni dello spauracchio del lupo cattivo o dell'orso mannaro per attaccare la vita selvatica e ricondurla sotto la soggezione dell'umano e delle sue regole, che sono poi quelle prevalenti dell'economia di mercato. Il futuro è altrove, in relazioni nuove, fra viventi. Distratti, ci guardiamo intorno. Cadono a terra carte, bottiglie, sospiri, scarti di questo mondo. Il settimanale La Lettura, in un suo recente numero, ha intervistato Andreas Malm, studioso e attivista svedese, autore di un libro dal titolo eloquente «Come far saltare un oleodotto. Imparare a combattere in un mondo che brucia», pubblicato dall'editore Ponte alle Grazie. Malm vi sostiene, legittimandola, la pratica del sabotaggio come strumento di azione non violenta, da aggiungere a quelli più tradizionali, come il sit-in, lo sciopero e così via. È il tema delle forme di lotta per la giustizia climatica, il tema dei temi quando parliamo di trasformazione della società attuale, così ingiusta e così priva di futuro se non vi saranno cambiamenti collettivi importanti. Ci piace allora segnalare un'azione diretta attuata in Olanda, all'ingresso del porto di Amsterdam, da attiviste e attivisti di Greenpeace provenienti da 11 paesi europei, inclusa l'Italia, con il blocco della nave mercantile Crimson Ace. Il bastimento di 225 metri trasportava 60.000 tonnellate di soia brasiliana destinata all'Europa, per essere impiegata in gran parte come mangime per gli animali rinchiusi negli allevamenti intensivi e destinati al macello o alla produzione di latticini. Alla protesta pacifica hanno partecipato anche alcuni leader dei popoli indigeni brasiliani a bordo della barca a vela Beluga, anche questa di Greenpeace. La soia da un lato, con le coltivazioni che divorano suolo e foreste per soddisfare i bisogni della zootecnia, gli allevamenti dall'altro, con gli orrori che comportano in modo strutturale. Un'azione diretta, quella di Amsterdam, che parla al nostro presente e prefigura un futuro diverso. Chiudiamo con una segnalazione che ci sembra utile e importante. La LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, ha lanciato una web app con il contributo della Nando e Elsa Peretti Foundation che si trova all'indirizzo animaliferiti.lipu.it ed è pensata per rispondere alle domande più frequenti che i cittadini si pongono quando trovano un animale selvatico in difficoltà. Il dubbio se raccoglierlo o meno, il pronto soccorso e l'alimentazione di emergenza, le cose assolutamente da non fare e soprattutto il centro specializzato più vicino al quale consegnarlo. È uno strumento prezioso, a disposizione di chiunque, e destinato ad agevolare anche l'opera di quanti sono impegnati nel pronto soccorso selvatici. person. But you got problems. Oh, oh, oh, oh. Touch you. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione al completo di Restiamo Animali, composta da Anna Granata, Valentina Reggioni, Camilla Lattanzi, Valentina Baronti, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Francesco Panier, Gianni Ferrarotti, Gabriele Pallone, Zenone Sovilla e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento, come al solito, è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.